tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il nostro sito giordanobrunomi.wordpress.com per le vostre mail info@sicilialibertaria.it. Iniziamo dalla Svizzera italiana con questo opuscolo di Carlo Cattaneo in cui si parla di bigottismo cattolico ottocentesco. Allora, un ricco giovanotto che studia già filosofia non aveva ancora ottenuto dal papà il permesso di leggere i Promessi Sposi, perché i bigotti cattolici erano talmente fanatici che anche i Promessi Sposi erano considerati un libro osceno. Una briosa giovinetta di un'altra famiglia bigotta, non potendo giungere alla lettura dei Promessi Sposi, e stranamente invidiosa di una sua cugina che si vantava a seco di averli letti ed esserne deliziata, si mise a fare il diavolo a quattro con la mamma e il papà, e un giorno giunse perfino a giurare che se lei si faceva più lungamente attendere alla lettura dei Promessi Sposi, si sarebbe addirittura fatta monaca. Passiamo al Corriere della Sera del 22 marzo e parliamo di crociate. Un saggio di Fulvio delle Donne, pubblicato da Carocci, rievoca la spedizione pacifica compiuta dall'imperatore Federico II di Svevia in Terra Santa. La crociata senza armi. Si accordò con il sultano e la scomunica non gli fu revocata, perché il papa voleva proprio una guerra santa, una strage di infedeli. Il dissidio, l'intesa con gli islamici appariva empia agli occhi del fanatico pontefice, ma Federico la celebrò al contrario come un evento provvidenziale. L'articolo è di Paolo Mieli. Passiamo al Giorno, quotidiano nazionale, del 30 marzo, preti pedofili. Ascoltati in audizione protetta tre presunte vittime del prete. Hanno subito abusi da Don Emanuele Tempesta a Cornaredo, in provincia di Milano. Una bella vignetta del Fatto Quotidiano, Maramotti. Sappiamo che la spesa per le armi è una pazzia, dice un cardinale all'altro. Ancora ci brucia l'aver buttato tutti quei soldi nelle crociate che, ricordiamo, sono finite in una clamorosa sconfitta dei preti e di tutte le loro false reliquie, perché alla fine hanno vinto gli islamici. La Chiesa Cattolica è stata sconfitta e per avere un nuovo esercito cristiano bisogna attendere il 1917, quando la Palestina fu occupata dai francesi anticlericali e dagli inglesi protestanti, che si spartirono tutto il Medio Oriente. Da Rete l'Abuso del 27 marzo, il dramma delle gravidanze causate da abusi nella Chiesa, il primo studio accademico da Francoforte in Germania. Sempre Rete l'Abuso, 50 bambini, prete artista di fama e pedocriminale, un nuovo vecchio caso scuote la Francia. Questo padre Louis Ribet avrebbe addirittura abusato di 50 bambini. Ricordiamo che anche noi di Bollate non scherziamo, perché un catechista abusò di 15 ragazzini durante il catechismo. Siamo nel secolo XIX. Suore pedofile, 30 marzo 2022, il Giorno. Eva, gli abusi e il suicidio. Era una signorina che si è suicidata perché è continuamente infastidita da questa suora pazza. Libera la suora, paura per quello che potrà ancora fare. Un articolo addirittura a tutta pagina del Giorno, che si conferma un giornale chiaramente anticlericale, perché gli altri giornali hanno bellamente saltato la notizia o relegata a 2-3 righe. La condanna, 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale, reato che vieta misure alternative. Mai corrisposto neppure il ristoro, cioè i danni inflitti agli eredi, cioè ai genitori, di 50.000 euro, la suora non ha saldato niente. Da Rete l'Abuso, abusi sessuali nella Chiesa. I vescovi italiani supereranno l'omertà? Articolo del 29 marzo. alto, magro, sigaretta in mano, palla come una mitragliatrice. Francesco Zanardi ci riceve nel suo piccolo bilocale, in un edificio di Savona, cittadina costiera del nord Italia. Cassazione, torna in carcere sacerdote accusato di abusi, sempre da Rete l'Abuso, 24 marzo. È tornato in carcere Don Sergio Librizzi, per molti anni al vertice della Caritas di Trapani, ma in realtà ne approfittava per stuprare e violentare la gente. Sempre preti pedofili, da Rete l'Abuso, del 24 marzo. In Italia i dati ci sono e fanno paura, ma nessuno ne parla e la paura raddoppia, di Francesco Zanardi. Solo vedendo il nostro panel dire che in Italia non esistono dati sul fenomeno della pedofilia nel clero mette davvero male. Tutt'al più si potrebbe dire che questi dati sono in difetto. Insomma, il 10% dei preti sono tutti pedofili. Sempre in Rete l'Abuso, abusi sessuali del clero su donne e uomini adulti, da redazione web, da Regensburg in Germania. Nuovi documenti. Cesano Maderno, passionaria della Lega Filo Crocifissi, addirittura condannata per traffico di droga. Dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione, altro che crocifissi, altro che santi. Anche i forzi taglioti Filo Crocifissi finiscono in carcere. Caianiello, un boss dei forzi taglioti Filo Crocifissi di Gallarate, da ieri in carcere, dalla prealpina del 27 marzo. Abusi dei sacerdoti sugli indigeni canadesi. Il Papa faccia giustizia. Il capo Inuit andrà in Vaticano. Quotidiano nazionale del 28 marzo 2022. Il capo dell'organizzazione nazionale che rappresenta gli Inuit in Canada ha affermato che il suo incontro con Papa non sarà motivo di festa, in quanto appunto ci sono tutte queste strage. E poi, sempre su questo argomento, quotidiano nazionale del 29 marzo, le ferite della Chiesa, violenze sugli Inuit, il Papa rinvia le scuse, Bergoglio ha accolto in Vaticano i nativi canadesi, costretti a convertirsi, ha espresso dolore ma per il momento non ha chiesto perdono, violenze indicibili, cristiani per forza, oltre 150.000 vittime. Il governo canadese ha ammesso che i maltrattamenti e gli abusi fisici erano dilaganti, con studenti picchiati, fosse comuni, insomma una strage orchestrata con la complicità o addirittura direttamente dai preti cattolici, dalle suore, dai frati. Dalla prealpina giornale del Varesotto del 27 marzo, DC uguale mafia, la Pia mafia e la P2. E qui una grande intervista. L'attentato di Capaci, diedero le colpe alla bassa manovalanza, ma la regia era più in alto, i servizi segreti. Quindi la NATO, la CIA, la P2, il delitto Mattarella, tutti sono stati fatti su mandato della destra democristiana, della NATO, della P2, con la complicità del Vaticano, che sicuramente sa tutto. Quotidiano nazionale del 24 marzo, figli delle coppie gay, stop alla registrazione. Torino, il giudice filoclericale blocca la trascrizione all'anagrafe comunale delle famiglie arcobaleno. Vincono i clerico-fascisti di Fratelli d'Italia. Disgrazie clericali, a Viggiù, proprio sul confine con la Svizzera italiana, suore verso l'addio, dopo quasi un secolo. Le religiose, ormai per la scarsità di vocazioni, si riuniranno in un altro convento. Poi, pochi don, alleanze forzate. Sempre la prealpina parla di Cuveglio e altre località dove non ci sono più preti. Le diocesi costrette ad accorpare le parrocchie, che oggi chiamano comunità pastorali. Disgrazie clericali. Via Crucis imbrattata, anticlericalismo popolare, parco dei mughetti a Ubaldo Riggio, scritte oscene fatte da popolani del posto contro le edicole della Via Crucis. E a Bari cosa fanno a Bari? Rubano le reliquie e gli ori di San Nicola. Bari, sparito l'anello, l'evangeliario e una croce, dal Corriere del 23 marzo. Funerali laici senza prete a Roma, segnalati dal Manifesto. Invece di andare in chiesa, i compagni lo saluteranno in un centro sociale, questo compagno Andrea che è appena morto. Su Rai Storia del 27 marzo, ore 19, si parla del professor Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, un grande ateo, un grande anticlericale, aveva sfiducia verso la Chiesa di Roma e non votò l'articolo 7. Si intervista la Iotti, ovviamente un'intervista di un po' di anni fa, che insomma raccontò tutta questa storia che lui fu uno dei pochissimi comunisti che votarono contro l'articolo 7, articolo 7 che includeva nella Costituzione il concordato clerico-fascista del 29. Vignette anticlericali sul Vernacoliere. Aiuti umanitari, si fa vedere un aereo che lancia crocifissi per aiutare i poveri ucraini. Poi verrà il giorno in cui Dio giudicherà tutti i nostri errori, dice un prete. Con che coraggio, dice un ateo. Vedere quei bimbi sotto le bombe ti cambia come uomo. Un'altra vignetta, sono due preti che parlano fra di loro. Viene quasi voglia di smettere di incularli e di provare un po' di topa. Sempre un po' osceno il Vernacoliere. Dal giorno del 30 marzo, nascite a picco nel grosso comune di Cinisello Balsamo, quasi 100.000 abitanti, grande vittoria anticlericale e matrimoni del 2021, 70 matrimoni civili e solo 29 religiosi. Con questa ottima notizia vi saluto e vi auguro buone attività ate anticlericali.